Salve a tutti, Bernardo Parrella dal Southwest degli Stati Uniti. Per una breve ma succosa anticipazione di Wired Magazine di aprile, è arrivata agli abbonati in questo weekend del 24-25 marzo, ancora non online e a malapena nelle librerie ed edicole. Partendo dalla notizia simpatica rispetto a Wired di luglio, perché in collaborazione con Xerox, Wired lancia delle copertine personalizzate, ovvero i primi 5.000 abbonati che manderanno una foto JPEG se la vedranno pubblicata sulla cover di Wired di luglio. Ovviamente l'ho già fatto, chissà, vedremo. Intanto la cover story di aprile è dedicata alla nuova pratica delle aziende, quella di spogliarsi letteralmente. Infatti non vi dico cosa c'è nell'immagine della copertina. Quindi spogliarsi significa poter andare avanti molto meglio per le grandi aziende. Si parla di radical transparency, onestà, trasparenza online, ovvero spiegare i propri problemi, lavare i panni sporchi non all'interno dell'azienda ma sul blog. È esattamente anche quello che ha fatto l'autore stesso dell'articolo, Cliff Thompson, ampliando il concetto, ovvero mettendo sul suo blog poco prima dell'articolo i temi dello stesso articolo, per poi chiedere feedback. Ha ricevuto, dice appunto, oltre 13.000 parole, le ha condensate, qualcosa è inserito nel pezzo e altri commenti sono al proprio fianco, quindi come delle note con la firma degli altri autori, quindi confermando la forza della trasparenza e della collaborazione online, cosa che ovviamente fa in modo più dettagliato nell'articolo, presentando ad esempio Glenn Gelman, CEO del real estate company, ovvero di un'agenzia immobiliare, Redfin, il quale è stato un po' uno dei primi a andare sul blog e spiegare i vari problemi che esistono nell'ambiente, perché non si guadagna abbastanza, perché ci sono troppi middleman, mediatori e cose di questo tipo. Altri esempi riguardano, forse un esempio che già alcuni conoscono, riguarda Richard Edelman, il quale la cui i suoi impiegati avevano creato una serie di vlogs per Walmart, ovvero di fake blogs, di blogs finti, che sembravano essere scritti da fan genuini e reali di Walmart. Dopo che l'inghippo è stato scoperto e quindi se ne è parlato parecchio online, la cosa interessante è stata che Edelman ha cominciato, oltre ad essersi scusato ripetutamente sul suo blog dovunque possibile, ha cominciato a postare sui blog proprio che lo accusavano, quindi creando questo ovviamente scontri polemici dappertutto, ma più che altro creando un sacco di discussione. Tanto che spiega appunto Edelman: se non sei là fuori a giocare, a prendere parte al gioco, alla questione, allora è come se ti mancasse il braccio sinistro. Non a caso l'articolo sottolinea come tutte queste discussioni, anche questi confronti, poi il gioco è quello di arrivare ai primi posti nelle ricerche con Google. Quindi torniamo al punto centrale, ovvero al sistema di reputazione, quello centrale che c'è online e che è sempre più valido anche e soprattutto per l'ambiente del corporation, per le grandi aziende. Quindi la reputazione veicolata dal search engine numero uno, e quindi i primi articoli che arrivano dopo le ricerche, sono cruciali. Quindi è importante partecipare sui blog e farsi trasparenti al massimo proprio per il proprio futuro. Lo stesso quello che ha fatto un po' Microsoft in un articolo successivo, in cui si racconta un po' la nascita di questo Channel 9, ovvero l'idea di Len Pryor, ovvero impiegato di Microsoft, che nel 2004 ha cominciato ad andare in giro con una camcorder nell'azienda, quindi semplicemente a riprendere la vita quotidiana, riproponendo poi online queste videoclip e quindi suscitando discussioni, oltre a grosse polemiche interne appunto per i tradizionalisti che si opponevano a queste pratiche. Anche se ora il futuro di Channel 9, Channel 10 di Microsoft in questo senso è un po' in dubbio, l'articolo appunto chiarisce come superare l'iniziale ansietà, questo movimento un po' di PR fatto un po' dall'interno, poi in realtà sta ristabilendo l'immagine di Microsoft, che non ha certo una buona reputazione nel mondo rispetto alle sue pratiche monopolistiche. Passando a un altro articolo interessante, breve, una piccola anticipazione di un libro che esce il mese prossimo qui negli Stati Uniti, ovvero la nuova biografia di Einstein, La sua vita e l'universo, in cui l'autore Walter Isaacson traccia un breve ritratto, appunto spiegando proprio, insistendo anzi, sul genio creativo e iconoclasta e dirompente di Einstein, scrivendo tra l'altro. Il genio di Einstein ci ricorda che il vantaggio competitivo di una società deriva non dall'insegnare le moltiplicazioni o le tavole periodiche, ma dal coltivare i ribelli. Quindi insiste su questo aspetto di Einstein come ribelle, come in effetti era, e un altro, citando anche un'altra sua battuta, l'immaginazione è più importante della conoscenza. Il magazine, oltre appunto alle solite molte pagine di gadget, pubblicità e cose di questo tipo, ha una breve classifica da segnalare: sono appunto le 40 compagnie secondo Wired che nell'anno scorso hanno prodotto maggiore innovazione a livello tecnologico, in tutti i campi appunto collegati a internet o meno, a tecnologia. Al primo posto, ovviamente, troviamo ancora Google. Seguito da Apple, poi andiamo su altri campi, Genentech, Samsung, quinto posto, News Corporation, sicuramente infatti, anzi come appunto come spiega proprio per il balzo in avanti di MySpace, per poi andare avanti, comprendere anche Cisco, General Electric, Verizon, Netflix al posto 18°. Per scendere direttamente al 40°, dove troviamo ancora Microsoft, quindi l'ultimo posto di questa classifica speciale ad hoc di Wired, 39° Intel, 38° IBM. Come dire, questi grossi giganti tradizionali stanno un po' andando indietro, a meno che non si riallaccino all'idea della cover story, ovvero di diventare ancora più trasparenti e aperti al mondo online. Probabile che andrà ancora così per un po'. Bene, è tutto per ora. Era Wired Magazine di aprile, breve anteprima italiana. Ci fermiamo qui. Grazie a tutti, alla prossima. Bernardo Parrella vi saluta.